Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Venerdì scorso sapevo che sarebbe arrivata l'impresa per cominciare a demolire alcuni pezzi della casa. Uno degli operai ha detto che da piccolo abitava vicino alla Dora e al Fausto, che li ricordava bene e che era felice che qualcuno avesse voglia di tornare ad abitare lassù. Mi chiamo Antonella, vivo a Treviso, ho 46 anni, sono mamma di due ragazzi e di lavoro faccio l'organizzatrice di momenti culturali e anche un po' la comunicazione legata a questi momenti. Nella nostra casa ci abitava una signora con due pastori tedeschi giganti e pelosi. Ogni tanto veniva da noi per il caffè e i suoi cani non avevano molta simpatia per noi nuovi inquilini, al punto che ringhiavano e sbavavano per tutta la casa. Da piccola ero terrorizzata. Chiara. La mia è una casa del Settecento, appartamento acquistato negli anni 60 dai miei suoceri. Qui ha sempre vissuto il mio compagno. Ricorda quando da piccolo è caduto dalle scale, quando nella via c'era una latteria, un bar e il fotografo, e ora invece sono tutti garage. Io i miei suoceri non li ho mai conosciuti, ma mi piace pensarli tra queste mura. Laura. Vivo in una casa che appartiene alla mia famiglia da secoli. Ogni volta che qualcuno viene a mancare, si trovano pezzi di storia, articoli di giornali, testamenti autografi veramente vecchi. Il grande giardino ha visto correre e giocare i miei bisnonni, i miei nonni, i miei genitori, me e mia figlia. Ed ora il mio sogno è che ci possano correre anche i miei futuri nipoti. Susanna. Le 16:08 in diretta dalla sede di Radio 24 in via Monterosa 81. 91. 91. 91. E poi perché è venuto a dire l'indirizzo oggi? Così, forse per dare la sensazione che fossimo veramente in diretta. Questa è Radio 24, sono Matteo Caccia, il programma invece si chiama Voi siete qui. Oggi forse non l'avete capito, ma raccogliamo e raccontiamo, perché poi questo è quello che facciamo quotidianamente. Partiamo da una storia, ma ne raccogliamo altre, come una sorta di grande collettore, un grande magnete che risucchia tutte le storie. No, non lo rifaccio, Paolino, anche se quella faccia volevi che lo rifacessi. Risucchia tutte le storie che hanno a che fare con la storia che raccontiamo. È la storia di Antonella, oggi, che parla di una casa e di tutta quella vita che ci è passata in quella casa. Lei racconta di fatto la storia delle persone che ci hanno abitato, che ci hanno vissuto e che di fatto gliel'hanno data in eredità. Noi però parliamo di case, delle vostre case, di chi ci ha abitato prima, di quali persone, quali personaggi magari, cosa ci facevano, come la usavano e come quella casa è diventata quando ci siete entrati voi. 349-238-6666 è il numero di SMS per scrivere al programma. Non telefonare, ricordatevi, solo SMS, o altrimenti Voi siete qui Radio 24 il profilo Facebook, ma anche Voi siete qui R24 il profilo Twitter. Così vi ho dato tutto e non potete dire che non avevo detto come contattarci. Se invece avete voglia di continuare a scrivere al programma, di continuare a mandare le vostre storie di qualunque tipo, non ci siamo dati preclusioni sul tema, qualsiasi cosa. Come vedete, oggi si è parlato di storia, ieri di cosa si è parlato ieri? Chi è che se lo ricorda? Aspetta un secondo, vado a cercarlo. Di Rivaldi, Desiderio di Rivalsa. Il giorno ancora prima di cosa si è parlato? Si è parlato di... non me lo ricordo. È come se cancellassimo... di vergogna? Tutti qua, devo dire che tutti qua in redazione è come se cancellassimo... di vergogna, giusto? Perché si parlava di furti da bambini e di cose che ci erano rimaste attaccate per quel senso di vergogna. Appunto, ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa. Oggi è la volta di Antonella, ma la volta anche vostra. Di quello che c'è in casa vostra, come l'avete trovato, chi ci abitava prima, che persone c'erano. No, di solito uno, anche se non lo sa, un minimo di ricerca se l'è fatta. Io me la sono fatta e più tardi ve la racconto. Claudio mi scrive: vivo in una casa che mi sono comprato con i risparmi e con un mutuo ventennale. La casa è di nuova costruzione e ad oggi, dopo 13 anni, sono l'unico che ci abbia vissuto. Direi poco poetica. Abbi pazienza, Matteo. Claudio, guarda, porterò pazienza. Intanto aspetterò altre storie che abbiano a che fare con questa. Gianluigi: prima che l'abitassimo noi, casa nostra era la casa di api, insetti, topolini, qualche riccio, talpe e chissà cos'altro. In fondo si dice sempre così. Una volta qui era tutta campagna. Insomma, a parte questa, che... va bene per come è venuta, Gianluigi, però la mettiamo da parte. Quella casa lì, quelle mura in cui state, qual era la loro storia, chi ci aveva vissuto prima? Questa qui, precisa precisa, è la storia di Antonella. Mia zia Dora, la sorella maggiore di mia mamma, non aveva figli. Sono quelle cose che si sapevano ma non si dicevano. In realtà non si sapeva neanche bene, ma comunque non si doveva dire. Però lei era una brava con gli altri, una che portava un piatto di minestra nella casa dove la mamma stava male, o che andava a prendere l'uomo all'osteria per quelle donne che avevano i bambini a casa che piangevano. Solo che non lo faceva pacatamente, silenziosamente, piuttosto bruscamente invece, con il piglio di chissà come si fa, sbrigativa e brusca, ma decisa. Ma anche questo era meglio non notarlo. La zia Dora era una donna di quelle un po'... in Romagna le chiamano le asdore, da noi in Veneto non c'è un termine per definirle. Queste un po' robuste, con il grembiule sempre addosso, con i capelli raccolti a crocchia, e che sapeva sempre che cosa faceva, almeno a noi bambini dava quell'impressione lì. Ecco, il fatto che lei e Fausto non avessero figli è il motivo scatenante di tutta questa storia. I genitori di Fausto invece non li accudiva nessuno. Lei in sedia a rotelle e lui con i suoi ricordi di guerra, la prima guerra. Erano due straordinari e pesantissimi vecchi. Straordinari per il paese che ne apprezzava la calma e la capacità di mediazione. Pesantissimi per lei, che se ne sobbarcava le cure da sola. Da mancata madre è diventata così figlia di nuovo. Al punto che nel testamento del nonno, sopravvissuto alla moglie, c'era scritto che proprio a lei e non ai figli o ai nipoti doveva restare quel piccolo paradiso di prato in mezzo agli ingert, gli scoscesi appezzamenti dell'alpeggio sopra il paese. Io e i miei fratelli, finita la scuola a Milano, salivamo per l'estate a Col de Pelle, dove gli zii tenevano due mucche e un vitellino, una trentina di galline e altrettanti conigli. Si saliva all'alpeggio ai primi di giugno e si scendeva per San Matteo all'inizio dell'autunno. Alcuni giorni erano noiosi da matti, ma il più delle volte c'era un sacco da fare. Guardar fare il formaggio, disturbare i conigli e tirare sassate alle galline. Andare a cercare l'acqua alla fonte, costruire l'arco con i rami giovani di nocciolo, cucire con la vecchia macchina a pedali. La sera prima bisognava scansare il bruschin, la spazzolotta della zia che ci lavava nella tinozza. E poi, con i bambini e i ragazzi delle altre casere, si giocava a scondicook, nascondino, sotto il noce, invaso dai ghiri. Poi la zia Dora si era ammalata e in fretta se n'era andata. Senza testamento. Era successo tutto troppo in fretta. E la casa era tornata per la metà in quello che credo si dica asse ereditario di suo marito, lo zio Fausto. Per l'altra metà era rimasta mia mamma, che da sorella era comunque un erede. Lei però non c'entrava con quella storia, ed è proprio quello che aveva detto allo zio. Con poche parole, ma un capirsi a naso, mia mamma restituiva allo zio la casetta del paradiso, dicendo proprio così, che lei non c'entrava con quella generosità lì, e che era giusto che se la tenesse lui, che in fondo era dei suoi genitori. Solo che poi anche lo zio è partito. E non avendo figli, lo dicevo che tutto era partito da lì, non aveva nemmeno eredi. Però lui sì, il testamento l'aveva scritto. Lasciava tutto a quattro persone, un cugino, una nipote, un nipote e mia mamma. E mia mamma, in forza di questa storia, aveva chiesto di tenere per sé proprio quel pezzetto lì. Il primo posto in cui ho portato Paolo, quando ho capito che lo avrei avuto a fianco per tutta la vita, è stato Col de Pelle. E nella prima notte di nozze ho dormito con Paolo nel letto degli zii. Abbiamo raccolto funghi ed erbe di campo per i risotti con gli amici. Per i miei 40 anni Paolo mi ha regalato la motosega, per tenere a freno il bosco che avanza. E la festa dei 50 anni di matrimonio di mia mamma l'abbiamo organizzata proprio lì. E ogni primo maggio, per il compleanno del mio piccolo Alessandro, portiamo i suoi amici e i loro genitori a fare il picnic collettivo. Nel 2010 mia mamma, e subito dopo mio papà, è mancata. Non ha lasciato scritto nulla su Col de Pelle. Però lo scorso anno i miei fratelli, che amano a modo loro questo posto ma non ne sentono la parte gioiosa, ricordando forse più di me la povertà dei nonni e degli zii, hanno lasciato a me questa casetta con il prato. Col de Pelle, io l'ho sempre conosciuta così e così è indicata nelle carte, nella toponomastica delle carte, si trova nell'area delle Prealpi che sta sopra il paese di Revine Lago. È composta di due parti, una è la casa dove appunto si faceva il formaggio, dove i nonni e gli zii vivevano nel momento dell'alpeggio, e l'altra parte è la stalla con il tabià, il fienile. Paolo sembra esserci nato.

nascosta dietro a un computer portatile, Antonella, nella foto che ci ha mandato. È seduta, credo, all'aperto, perché c'è una bella luce che arriva dalla sua sinistra. Ha il laptop sulle ginocchia, su dei jeans e una felpa che si intravede, di quelle con le scritte grandi. Potrebbe essere, si vede solo una I o una NO, potrebbe essere Torino. Lei proprio spunta, fa capolino con la testa da dietro al computer e sorride. Pronta, Antonella? Sì, ciao Matteo. Come stai? Bene. Quella felpa lì cosa c'ha scritto? Torino? Sì, c'è scritto Torino, è vero. Ma scusami, doveva esserci scritto Tarvisium, che è la squadra del rugby di Treviso. Dei ragazzi. Però invece ho trovato quella Torino, ho detto vabbè, la T c'è, qualche altra. È andata bene lo stesso, quella. Certo. D'altra parte, che differenza c'è tra Torino e Tarvisium? Esattamente. Scusami, ricostruiamo un attimo la questione, geolocalizziamo, scusami Antonella, perché io ho fatto un po' di confusione. Tu vivi a Milano, giusto? No. Io, i miei genitori sono nati su in queste colline e poi si sono trasferiti a Milano quando okay. si sono fidanzati, hanno vissuto lì, noi siamo nati lì e poi ad un certo punto sono tornati in Veneto, sono tornati a Treviso e loro in realtà, noi figli siamo rimasti a lungo a Treviso, loro alla fine erano andati a vivere lassù. Quindi tu vivi a Treviso adesso. Io vivo a Treviso, invece, i miei fratelli anche, tutti siamo tornati. Invece però, Col de Pel? Col de Pel è 50 km da Treviso, dicevi. Sì, è vicino a Vittorio Veneto, nella zona di Vittorio Veneto, nelle Prealpi. Ok, che altitudine più o meno? 625 metri, okay. Ed è un più o meno. Ed è un alpeggio, giusto? Era l'alpeggio perché chi stava in paese, appunto in questo paese che sta sotto, che è Rivine, usava questi 50 metri sopra di altitudine, in realtà 300 metri di altitudine, per andare d'estate a fare l'alpeggio. La montagna è molto più alta, arriva fino a 1000 metri, per cui tutti erano usi ad andare a fare l'alpeggio, solo che questi nonni avevano la casa a metà della collina. Ok, perfettamente, insomma, adesso più o meno ho geolocalizzato il tutto. Da quando è che sono cominciati i lavori? Da poco? Pochissimissimo. E come sono ti senti? 10 giorni, male. Ah, proprio ufficialmente male? No, mi sento benissimo per l'idea di quello che succederà poi. Bene, perché so che quando avrò finito di tagliare l'erba o di tagliare la legna, lì poi potrò farmi una doccia e dormire, cosa che fino ad oggi non era potevi possibile. Fare. Male perché l'idea del cambiare tutto quello che ho visto con gli occhi da bambina un po' fa male, come dire. Tu ci hai mandato una foto, poi magari la postiamo anche sul profilo Facebook, perché è un posto incantevole, si vede chiaramente dalla foto, è proprio il tipico alpeggio alpino, insomma, in realtà prealpino perché è abbastanza basso di quota, però ha due case di pietra, giusto? Ce lo descrivi e dici come viene adesso? Beh, allora, viene esattamente com'è, nel senso che devi mantenere è la cubatura tutelata e okay. quindi riusciamo, manteniamo esattamente com'è, lo rifaremo con le pietre, semplicemente gli diamo più stabilità e alziamo un pochino, perché io non so se i miei nonni fossero bassi o chissà, o vivevano poco o se in tutti casa, erano più bassi. Sono veramente bassissimi, non ci si entra, si sbatte la testa ogni volta che si entra. Quindi abbiamo ottenuto di poter alzare un pochino e di allargare un po' le finestre, ma non molto più di questo. Cioè, ma più o meno quante stanze avrete in casa? Avremo una cucinina, un soggiorno dove metteremo la stufa e una camera grande e due bagnetti che ricaviamo sottoterra, perché questo lo si può fare, invece si può ricavare sotto la collina e si riescono a ricavare ma quindi un bagno. Tutta la famiglia dorme insieme sostanzialmente? Ma in realtà non credo che riusciremo a viverci con i figli, nel senso che io credo che metteremo a posto, lasceremo un po' che i ragazzi crescano e poi ci andremo a vivere io e Paolo. Ah, ma voi volete proprio andarci a vivere? Paolo vuole andarci a vivere, io lo seguirò. Senti, mi è piaciuto molto il regalo che a 40 anni ti ha regalato una motosega. Credo sia uno dei pochi uomini. No, a 40 giusto te l'ha regalata. A 40 anni, sì. E tu la sai usare bene una motosega? Beh, non benissimo, mi fa ancora un po' paura. È una motosega elettrica, quindi è abbastanza sicura per le dimensioni di una donna non possente, come posso essere io. Cosa hai tagliato? Dimmi la cosa più grossa che hai tagliato. No, c'erano lì attorno degli alberi che ho dovuto tirar giù perché rischiavamo appunto che con il cantiere, e i rami di un ciliegio sono riuscita a ridurli a pezzi. Scusa Antonella, poi ti saluto e ti ringrazio. Mi ripeti come definivi il genere femminile a cui apparteneva la zia Dora? Com'è che l'hai definita? Ma no, io dicevo, l'ho sempre sentito dire, in Romagna si usa questo termine asdora. Asdora. che, non so, penso la casalinga tipica, mi viene da dire, ma se trovi qualcuno di romagnolo te lo dice meglio. Probabilmente... In Veneto questa cosa qui non c'è, però in Veneto si dice, per dire zia, si dice amia. E lei era proprio una amia. Benissimo, sono quelle cose che non hanno una traduzione, ma probabilmente ogni regione ha la sua definizione. Grazie mille Antonella, in bocca al lupo per Col de Pel. Grazie, a presto. Ciao. Ed ecco, giusto una citazione a proposito di motosega, visto che è la prima donna che sento a cui gli viene regalata una motosega, insomma non saranno tantissime. 349-238-6666. Mauro scrive: dopo aver comperato la casa ho scoperto che aveva la fama di portare sfiga, sembra che ci sia stato anche un omicidio. Queste però si raccontano, Mauro, e mi sono accorto sulla mia pelle. Abito in una torre del 1500, posto di guardia sulla mulattiera che porta in Svizzera da Pontida. Muri spessi un metro con blocchi di granito ancora più spessi. Matteo, sono Carlo, 26 anni, ho fatto più di 6 traslochi. Partendo da Novara sono finito a Gemona del Friuli. La casa che mi è rimasta impressa è quella di Udine. I proprietari erano cinesi e dentro c'erano tutte le cianfrusaglie cinesi. Ciao da Gemona, appunto. E ancora Michele: vivo in un rustico restaurato dove i precedenti proprietari erano lei una gattara, lui un cacciatore. Un giorno lui, esasperato dalla moglie e dai gatti, impugnò il suo fucile e si sparò. Ogni tanto mi sembra di sentire lui che da fantasma mi spia. Insomma, c'è sempre qualcosa legato a qualcuno che c'è stato e che ha fatto qualcosa di tragico in una casa. Non si capisce perché, forse perché il dolore rimane più addosso alle pareti, o semplicemente piacciono di più le storie di dolore che sono un po' gialle rispetto a quelle semplicemente di gioia. Raccontate storie e scaricate i podcast, li trovate sul sito di Radio 24 alla pagina dei podcast, ovviamente, o tramite Voi Siete Qui, o altrimenti in scaricamento, abbonamento gratuito tramite iTunes. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto ad Antonella, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Alessandra, sono di Alzano Lombardo. La storia di domani è la mia e parla di camminare sulla linea gialla. Questa è la mia storia e io sono qui.